Pronto? Pronto, prova? Sì, io mi sento. Io non mi sento neanche qui. Le prese? Certo, chiaro. Cittadinanza. Il nostro amore si contorce. Cucci in onda questa sera. Buonasera radioascoltatori di Radio Alma. Buonasera, buonasera a tutti. Stasera inizio alternativo. Ciao ragazzi. Oh yeah! E siamo in onda oggi 3 novembre sì, ho detto giusto, 3 novembre 2014 dalla Maison de Culture de Saint-Gilles, e abbiamo questa fantastica opportunità di avere i Joy al completo. Gioio 1. Ciao a tutti, io sono Gioio 1. E Gioia 2, Tiziana. Buonasera a tutti. Olè, ed eccoci ritornati. Ecco, come avete sentito, l'inizio è stato un po', ecco, diverso. Non andate in onda la sigla. Abbiamo Era tutto previsto. Alternativo. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico, quindi se avete sentito qualche voce di sottofondo, tutto regolare, non vi preoccupate. Non fa nulla, avrete notato che non c'è neppure la sigla. Oggi mandiamo direttamente le canzoni, facciamo un po' in modo alternativo. Oggi proprio non si capisce più niente qui in studio. Perché? Perché parliamo questa sera di passioni. È proprio questo il nostro tema. Perché praticamente... Wow. Oh mamma mia. Perché praticamente due settimane fa abbiamo fatto una bella puntata sui dolci, una puntata molto carina, che appunto abbiamo invitato degli ospiti a parlarci delle loro passioni per la cucina. Stasera invece le passioni sono un po' diverse, sono delle passioni musicali, perché ecco, questa canzone che avete sentito è di un artista, di una persona che abbiamo la fortuna di avere con noi in studio, ma aspettiamo ancora qualche studio. Rossella in studio. Ecco, ma mi perdo le vocali, come una vocale, studi, oh, grazie per l'italiano, Tiziana. E quindi questa sera vorremmo un attimo ricordare che siamo in onda sui colori dell'anima, questa nostra trasmissione che va in onda ogni lunedì del mese e che si chiama così per un modo particolare, e io chiamerei a interrogare Leandro. Sì, maestra. Eccola. Allora, ecco. Spiegaci perché si chiama I colori dell'anima. Allora, I colori dell'anima si chiama perché noi tutti i lunedì chiamiamo qualcuno, qualche ospite, a parlare di sé, a parlare di qualche argomento in particolare, e poi alla fine della trasmissione la nostra ospite stasera ci dirà un colore che lei è particolarmente, o gli è particolarmente caro, o un colore che contraddistingue a suo modo di vedere l'argomento di cui si è trattato. Ecco perché siamo noi i colori dell'anima. Olè! E questa sera di sfumature ne avremo veramente particolari, no Tiziana? Non ti sento. Dicevo sì, perché anche la musica, così come i dolci, l'altra puntata, ha un sacco di sfumature. I cantanti hanno sempre tanto, tanto da dire. E penso che sarà bello ascoltare cosa avrà da dirci la nostra ospite stasera. E intanto noi ricordiamo il numero di telefono in cui ci potete contattare. Mandate sms al 0486 94 11 29. Anzi, lo dico così: 0486 94 11 29. Vedremo che succede. Aiuto! E poi sempre e al poi, solito ci risiamo, Rossella. Telefonate allo 02 345 2656. 02 345 2656. Non vendiamo niente. E ancora la pagina Facebook, non dimenticate. Fatevi sentire, mandateci i vostri commenti, le vostre opinioni. Rossella, virgola, Tiziana e Leandro on air. Olè! E allora adesso possiamo ufficialmente partire con questa puntata ricca di sorprese. Ma io partirei proprio dicendo di chi era questo pezzo musicale, questo brano che abbiamo ascoltato all'inizio, questa voce calda, questi ritmi travolgenti. Questa canzone si chiama Il finimondo ed è della cantautrice Valentina Gravilli, che è qui con noi. Ciao Valentina! Ciao a tutti! Ciao Valentina! Benvenuta, siamo felici di averti qui in studio, perché appunto affrontare la passione musicale, io devo dire la verità, mi sento emozionata, perché è una bella passione, una passione che condivido. Quindi, che condividiamo, sì. Esatto. E poi Valentina, tu hai questa passione per la musica, come l'hai scoperto? Io vorrei sentire un po' dall'origine della tua storia. Perché tu non sei solamente una musicista, sei anche una cantautrice, no? Sì, io scrivo i miei brani, i miei testi, la mia musica. E diciamo che la mia carriera musicale è nata sin da subito in questa maniera, nel senso che mentre di solito si comincia cantando le canzoni degli altri, confrontandosi con le canzoni degli altri, io quasi sin da subito, appena ho imbracciato la chitarra, quando sapevo fare i primi accordi, ho cominciato sin da subito a comporre, a mettere in musica le mie poesie. Quindi sentivo proprio la necessità, più che di cantare semplicemente, di dire qualcosa in musica, ecco. Quindi il piccolo genio. No. Ma a che età è arrivato questa voglia di esternalizzare i tuoi sentimenti, no? Magari attraverso la musica, che tu dici che scrivevi delle poesie inizialmente. Forse una decina d'anni, non vorrei sbagliarmi, però sì, verso i 10 anni. Ecco. Sì, 10 anni ho cominciato a scrivere le mie poesie, abbastanza cretine, quando le vado a rivedere ho ancora qualche diario vecchissimo di quei tempi. E all'inizio non sapevo neanche suonare la chitarra, quindi addirittura in quella situazione creavo la melodia semplicemente con la voce, anche se non potevo accompagnare con degli accordi, con un'armonia, con qualcosa, no? Quindi semplicemente creavo la linea melodica. Idda, creava la linea metodica, lei la poesia. Idda. Senti, invece il momento dell'approccio con la chitarra, chi te l'ha regalata questa chitarra? Come è venuta questa fusione? Allora, mi ricordo che avevo degli amici che la suonavano sulla spiaggia e quindi ogni tanto gliela fregavo, quindi mi facevo insegnare i primi accordi. Poi siccome all'inizio non ce l'avevo, cosa facevo? Avete presente quelle sedie che hanno le varie fasce di legno? Sì. Avevo rotto una di quelle sedie e ci avevo disegnato il manico della chitarra e le corde. E quindi provavo gli accordi sul legno. Direi che è geniale. Insomma, avevi proprio un grande bisogno di suonare. Va. Esatto. Infatti a un certo punto se mia madre e mio padre hanno detto: va bene Valentina, vieni, basta. Ti portiamo in un negozio, scegli la chitarra che vuoi e comincia a suonare. E basta, con queste sedie che ne abbiamo anche bisogno. Esatto. E quindi, insomma, sin da bambina avevi un grande bisogno di comunicare. Io sono sempre stato curioso, insomma, come si scrive una canzone, come nasce? Allora, vabbè, ti ho detto che all'inizio sì, scrivevo la mia poesia e poi la mettevo in musica. Col tempo ho imparato a fare le due cose contemporaneamente, nel senso che mi sono resa conto che mi veniva meglio, o meglio, ero più contenta del risultato nel momento in cui scrivevo le parole e contemporaneamente la musica, o comunque le due cose si rincorrevano. Allora lì mi sembrava che il brano fosse veramente nel pieno del suo sviluppo e fatto bene. Quindi hai provato, hai provato forse prima il testo e poi la musica? Esatto, però non ero soddisfatta perché mi sembrava forzato. Oppure a volte provavo anche la musica, che ne so, magari cantandola in finto inglese o facendo il la la la la la e poi mettendoci sopra le parole, però anche quello mi sembrava forzato perché non... Le parole erano obbligate dalla musica e viceversa. Invece ho capito che il meccanismo devono nascere più o meno contemporaneamente, frazioni di secondo. Si rincorrono le due cose. Per me, ovviamente poi ognuno ha il suo metodo. Certo. Per me è questo. Senti Valentina, tu hai fatto dei corsi particolari, non lo so, di chitarra, di scrittura canzoni, dei corsi di canto, che... Allora, io ho studiato canto, quello sì, per quanto riguarda, e anche, vabbè, chitarra, non tanto, non sono sincera, sono un po' pigretta da questo punto di vista, nel senso che tutte le volte che mi metto a provare le mie scalette sulla chitarra, compongo una canzone e non faccio più le scale. Ah, ecco, che no? Mi pare pure molto produttivo come lavoro, ecco. E quindi diciamo che non sono stata molto assidua proprio nello studio dello strumento, proprio anche perché non era quello poi il mio obiettivo finale, non volevo diventare la chitarrista virtuosa o la cantante virtuosa, no? Uh-huh. Io semplicemente volevo esprimerti in modo tuo. Esatto. Niente, questo mi sono dimenticata sì. Anche me. No, ecco, ti dicevo questo, se avevi fatto un corso, perché in realtà io so un piccolo segreto, sì, di come è iniziata la tua storia, che è un aneddoto molto carino, ecco, perché appunto Valentina ha detto, vabbè, ora che c'ho la chitarra, magari prendo qualche lezione. Esatto. Quindi sei andata al corso. In questa scuola, ecco, di Brindisi. Perché abbiamo detto che Valentina è pugliese, sono una bella pugliese, veterana. Esatto. Però adottata a Roma, da Roma. Adottata a Roma, sì, da Roma e adesso da Bruxelles per un po' di tempo. Ecco, poi ci spiegherai tutti questi salti. Esatto. Ma torniamo alla scuola di chitarra. Sì, sono andata lì e praticamente il direttore della scuola mi chiede di... mi chiede di praticamente fargli ascoltare qualcosa per capire in che livello, a che livello mi trovassi, per capire in quale classe mettermi, mm-hmm, no? Certo. E io gli dico, come ho detto a voi, ma io non so suonare le canzoni degli altri, se vuoi ti suono una mia canzone. E lui mi fa, sì, va bene, suonamela. E il fatto sta che gliel'ho fatta sentire, gli è piaciuta, e lui mi fa, ok, Vale, ne hai altre? Ho detto, sì, ne ho altre, va bene, allora portami tutto perché voglio portarti in una casa discografica. Wow. E praticamente io, invece di mettermi a studiare la chitarra, mi sono ritrovata a incidere il mio primo disco, praticamente. Complimenti, hai visto, mamma mia. Capito? Uno va a studiare la chitarra, invece. E trova il produttore che ti fa il CD. Sì. Bella, ci piace questa storia. Ma io ne ascolterei un'altra canzone, perché a me mi piacciono le canzoni sì, di Valentina. Dai. Tiziana, quale ci fai ascoltare? Andiamo con la prossima canzone, che salvo problemi tecnici, dovrebbe essere... Sorpresa, tanto noi ci piacciono i sorpresi. Canzone Guerriglia d'Oriente. No, canzone no, Guerriglia d'Oriente. Guerriglia d'Oriente. Olè! Olè! Sognando sogni differenti e fanno di un cuscino un cinema. Oggi di che colore? cuore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi. Allora, i primi più attenti si saranno accorti che questa di Guerriglia aveva poco. Diceva arriviamo tardi ovunque, come noi ragazzi. Infatti la vera, il vero titolo della canzone è arriviamo tardi ovunque e sempre, aggiungerei io. Grazie Leandro per questa piccola spiegazione, ma questa sera ci sono tante sorprese e chissà quante altre ancora. Però io vedrei un attimo, ricorderei ai nostri amici dei colori dell'anima che ci possono contattare su Facebook e anche sul telefono allo 02 345 26 56. E su Facebook c'è qualcosa, Leandro? Ancora no, scrivete, ma scrivete. Come, no, c'era, non come, mettete ragazzi? Solo mi piace. Giusy, Dino, Cecilia, scrivete, scrivete. Ah, ecco, vi salutiamo, eh. Salutiamo, salutiamo. Salutiamo tutti. Bene, quindi rieccoci in studio con Valentina Gravilli, che ecco, questa puntata della radio, proprio della trasmissione, l'abbiamo voluta chiamare proprio Arriviamo tardi ovunque, proprio perché è il titolo di questa canzone che dà il titolo all'ultimo album che hai composto. Ma di la verità, Valentina, perché già ci conoscevi, no? Per questo hai scelto esatto, questo titolo. Ve lo dedico. Olè! Ma ecco, ci incuriosisce il titolo, tutti e tre ci siamo guardati e abbiamo detto, ma come fa a saperlo se non ci conosce? No, dice, no, è il nome del cd. Il problema è che forse siamo molto simili, ecco. Nel senso che comunque, cioè, sono partita appunto da una constatazione sul mio carattere, arrivo un po' tardi ovunque, sia a livello di tempistiche, proprio l'arrivare in tempo a un appuntamento, ma mi sento anche un po' ritardataria in ogni cosa, nel senso magari ogni scelta che faccio poi mi rendo conto che è quella sbagliata perché non è più il momento di farla. E quindi poi... anche un significato metaforico, no? Esatto. Quindi arriviamo tardi ovunque, forse come sì. Generazione, forse. Bravo, allora. Bravissimo. E infatti poi da lì, da una costellazione personale, sono passata a una costellazione generazionale. Ho detto, mi sa che questo problema che ho io ce l'hanno un po' tutti, nel senso... almeno in Italia, io la situazione di Bruxelles ancora la devo conoscere, però in Italia, quando parlo con la gente, mi rendo conto che hanno... sembra che si siano un po' preso tutto, dico io. È come se la torta fosse già stata spartita e noi fossimo arrivati tardi, no? E non ci fosse più niente per noi. E ripeto, quando parlo di questa cosa, dico, che ne so, c'era la nonna o la mamma che mi diceva prenditi una laurea perché se studi, se ti impegni, allora troverai un bel lavoro, ti sistemerai. E invece poi ti rendi conto che le cose non sono più così. Prima, un tempo, no? Sì, siamo così. Nati adesso nel momento sbagliato. Sembra di essere arrivati nati nel momento sbagliato. Anche con la musica, no? Mm. Cioè, io penso al periodo degli anni 70, quando c'erano i produttori che andavano nei locali a sentire i musicisti, a scoprirli. Adesso invece stiamo lì davanti alla stanno lì anche i produttori davanti alla televisione a guardare i talent show perché non gli va nemmeno di muovere il culo, dico io, dal loro divanetto e di andare a sentire la gente che suona veramente nei locali, la musica reale, no? Anche questo è cambiato e quindi niente, sono sì, arrivata tardi anche su questo. Ma non mi pare che sia arrivata tardi, Valentino, io sono di un'altra opinione, ma il tempo ci dirà. Ma invece senti, ecco, noi abbiamo fatto un bel salto dalla prima lezione di chitarra all'ultimo CD solo su Radio Alma, ragazzi. No, però ecco, vorrei un attimo tornare indietro vorrei che tu ci raccontassi poi dopo questa promessa, ecco, di questo CD, come è andata poi il resto dell'avventura e com'è che sei arrivata a produrre poi il terzo CD. Allora, ecco. Quindi siamo arrivati alla promessa di fare il secondo CD, che è chiaramente fatto. Immagino tua mamma e tuo papà dice vabbè, se la sono portati, arrivederci. Esatto, infatti all'inizio erano un po' spaventati loro. Però poi alla fine ti dicevo che sono diventati i miei più grandi fans, mi seguono durante i concerti. E allora io li saluterei. Delle cose. Sì, ciao papà, ciao mamma, ciao Serena, mia sorella pure, l'altra fan. Il fan che ha avuto un ruolo molto importante. Sì, assolutamente, lei ha curato praticamente la parte grafica del secondo e del terzo disco, mm-hmm. E non solo... Perché, allora, aspetta, facciamo... Vai, vai, Valentino. Mi hai chiesto di fare tutta una cronologia, allora... Dacci dei morsetti, dei bite, di un po'... Des morceaux alla francese. Très bien, Valentina. Vedi, sto imparando. Praticamente dopo aver parlato con questo produttore, essere arrivata nella mia prima casa discografica, ho fatto il mio primo album che si intitola Alle ragazze nulla accade a caso, ispirato a una frase del barone rampante di Italo Calvino, che, se mi permetti, ha vinto pure il premio Ciampi nel 2001 come miglior debutto discografico. Esatto. Sì. Quindi sì, diciamo che sono partita, ero soddisfatta, sì, ero contenta. Le cose sono andate bene, ho fatto un sacco di concerti, la critica era entusiasta, belle recensioni, però le vendite del disco non sono state eccezionali, anche perché ci troviamo in un momento in cui comunque la gente non, già da 10 anni fa cominciava la crisi del disco, e quindi non si comprava più il disco. Quindi diciamo che il rapporto con la mia prima casa discografica è finita, è terminato. E il secondo album ho deciso di autoprodurlo, quindi sono diventata discografica di me stesso. Secondo album, che ricorderei che si chiama La balena nel Tamigi, un nome e un programma, perché tu parti, dice, piccoli spunti di riflessione, scrive canzone, e qua mi pare che ci sono concetti molto più interessanti dietro da scoprire. E, ecco, un titolo curioso e che so pure che ha una... è stato promosso in maniera molto particolare. Esatto, e qui ritorna mia sorella. Eccola. Sì, perché allora la balena nel Tamigi è la metafora dello smarrimento, cioè una balena che arriva nel Tamigi ovviamente sarà una balena smarrita, che bloccata. Si è persa, insomma non è proprio il suo habitat naturale, ed è tra l'altro un fatto di cronaca vero, nel senso che questa cosa è successa realmente, è stata avvistata una balena nel Tamigi a causa dell'inquinamento, ovviamente si era persa. Immaginati quello che ha detto: oh, ma ha visto balena nel Tamigi? È bello, perché su YouTube trovi le immagini, è fantastico. Cioè, bello ma anche tragico in realtà, se poi ci pensi. E niente, quindi ho preso questo fatto di cronaca come metafora dello smarrimento che stiamo vivendo tutti quanti. Da lì è nato lo spunto, insieme a mia sorella, che è una graphic designer, ma si occupa anche di comunicazione, di promuovere questo disco usando il cosiddetto guerriglia marketing. E quindi abbiamo creato un movimento su una pagina Facebook in cui le persone arrivavano, scrivevano e completavano la frase oggi mi sento smarrito come una balena nel Tamigi, perché? E mettevano i loro pensieri, le loro riflessioni. Quindi un canale per poter esprimere, per sfogarsi, ognuno. Per dire perché sono perso, cavolo, datemi un punto di riferimento. E poi abbiamo deciso di praticamente portare delle balene gonfiabili in giro per l'Italia e abbandonarle nelle grandi fontane, tipo io personalmente sono andata a metterne una nella fontana di Trevi, di nascosto dai vigili e dalla gente, perché altrimenti... E ora lo sanno tutti! Non è vero, non si sa. Tutti i fan, comunque la gente che si ritrovava in questo discorso, mi ha aiutato, hanno preso appunto queste balene gonfiabili che noi abbiamo inviato e le hanno messe nelle fontane delle grandi città. E poi questo ha creato curiosità, ha creato un movimento di persone che hanno promosso il tuo disco allo stesso tempo. Esatto, se ne è parlato sia per la musica che per l'evento promozionale, ed è per questo che poi ho vinto questo premio, il premio May, che premia l'autoproduzione, ma premia anche appunto le dinamiche appunto promozionali e le scelte promozionali che abbiamo fatto grazie, ripeto, all'aiuto di mia sorella Serena Gravili, che ora vive ad Amsterdam, fa la graphic designer, lavora, cioè fa proprio questo di mestiere. Quindi lei ha avuto un ruolo fondamentale, ma poi... Assolutamente. E voglio dire anche un'altra cosa, che noi abbiamo messo nella pagina Facebook di Rossella Tiziana Leandro, il tuo video ufficiale, che già... arrivano i primi commenti, per esempio Cecilia, che l'ha appena visto, ha detto molto bello, e poi abbiamo anche i saluti da Katia, che ci saluta, ciao Katia, e ha messo un mi piace anche una certa Serena, che penso che forse conosci. Ecco, la salutiamo, brava Serena, ottima ciao idea. Ciao Serena. Senti, tra l'altro anche il video l'ha fatto mia sorella. Ah, ecco, il video, appunto, tutto in famiglia, che bello. Se state parlando del video di Arriviamo da ovunque, sì, l'ha fatto mia sorella. Girato ad Amsterdam, sì, molto ad bello. Amsterdam, sì. E allora collegatevi e guardatevelo, ragazzi. Esatto. E io direi... Allora, ragazzi, io vi interrompo un attimo perché abbiamo un'altra Serena in linea. Una Serena che probabilmente molti dei nostri ascoltatori conoscono. E allora la metto subito in contatto con voi, con noi, con tutti. Sì. In modo che vediamo dove ci porta stasera. Serena, ci sei? Pronto? Sì, eccomi. Ciao, ciao ragazzi. Serena. Ciao, ciao Serena. Ciao. Ecco, che bello riaverti con... Sì, sì, siamo molto contenti di averti con noi dopo una piccola pausa estiva in cui tu hai dato alla luce una bellissima pulcina che salutiamo tutti, la Caterina. Ciao Caterina! La Caterina! E adesso... Ciao Caterina! Da parte di Caterina! Bene, e adesso torna la nostra Serena, la nostra travel blogger, che con la sua passione, perché ecco, la vita è fatta da, dalle persone che hanno passioni, e Serena ha una grande passione per il viaggio e per il blog. Serena, ricorda per chi non ci ascolta che è il travel blogger magari. Che cosa fai? Che cosa fai di bello? Niente, praticamente ho un blog di viaggi dove racconto le mie esperienze di viaggio, insomma voglio condividerle con più persone possibile. È un modo bello appunto per imparare e comunque nello stesso tempo appunto far sentire ad altre persone quello che si prova nel viaggiare, insomma. Le passioni poi sono fatte anche per essere poi condivise, perché altrimenti diventano un po' sterili secondo me. Quindi per questo è nato il mio blog. Bene, dove ci porti questa sera, Serena? Che cosa ci proponi? Allora, questa sera vi porto in un luogo che per me è molto molto caro. Intanto siamo in Liguria, nella mia amata Liguria, e in provincia della Spezia, con l'esattezza a Bocca di Magra. A Bocca di Magra c'è un monastero che si chiama Santa Croce, che è un'oasi veramente di pace e serenità, dove assolutamente dovete venire, perché poi sapete che io penso anche a voi da Bruxelles, quindi c'è un comodo aereo che arriva a Pisa e poi si arriva, insomma, magari vogliamo venire pure noi. Infatti io penso sempre a voi nei miei itinerari. Comunque questo monastero è molto bello innanzitutto per la vista, perché c'è una vista incredibile che va dalla foce del fiume, che proprio si immerge nel mare, quindi arriva fino al litorale toscano, la Versilia, fino a Livorno. Nelle giornate nitide si vede anche l'Isola d'Elba, la Capraia, quindi è veramente bella la vista che c'è. Ma poi è famoso per un crocifisso ligneo del XII secolo, chiamato anche Cristo Nero, all'interno di una cappella, insomma, antica del monastero, a cui si accede passando tramite un parco di 10 ettari, quindi di cedri, lecci, di palme, veramente bellissimo. Proseguendo si arriva addirittura anche al mare, quindi è uno scenario proprio magico e misterioso nello stesso tempo. Vi parlo di questo monastero anche perché c'è possibilità di alloggio, quindi hanno diverse camere, danno la possibilità di pernottamento, quindi sono stanze molto semplici ma veramente, insomma, con tutto, insomma, pulite e graziose. Si mangia benissimo, che ovviamente danno anche pranzo e cena, quindi è anche un ottimo modo, insomma, per stare nel luogo e viverlo veramente, perché poi si può partecipare alla vita sia dei frati, è gestito dall'ordine dei Carmelitani Scalzi, quindi mi ha fatto venire voglia di diventare monaco, Serena. No, per favore no. Mamma mia, metti a rischio un matrimonio, aiuto. Chiudiamo il collegamento adesso. Vabbè, ci si può andare per rilassarsi. Niente, andiamo per io e Valentina. Andiamo io e Valentina. Valentina scrive canzoni, io assaggio la cucina. Però volevo anche unire a una parte appunto più spirituale a quella ludica, perché lì vicino c'è una spiaggetta che dovete assolutamente vedere, che si chiama Punta Corvo, arriva tramite il battello, sia da appunto Bocca di Magra, come vi dicevo, oppure da Fiumaretta, si trova sulla sponda opposta del fiume, o per i più coraggiosi addirittura anche a piedi, ma insomma devi essere ben allenato. E questa spiaggia ha una particolarità di essere di sabbia proprio nera, come fosse una spiaggia vulcanica hawaiana, per intendersi, con quest'acqua, insomma, turchese, cristallina, bellissima. E tutta la vegetazione che ovviamente si sporge sull'acqua, tipica ligure. Quindi, insomma, due cose imperdibili in provincia della Spezia. Se ho ancora tempo, proseguirei anche con un'altra piccola consiglio di viaggio. Dai. A parte che in spiaggia, io vengo in spiaggia. Io vado in spiaggia. Ok, prego. Va bene, per spiaggia, sì. No, vale sicuramente la pena. No, l'altro collegamento lo farei invece in provincia di Genova, praticamente c'è un altro sempre luogo spirituale, che è un santuario di Gesù Bambino di Praga. Ve lo collego perché è sempre del Carmelitani Scalzi, quindi insomma, e poi anche lì si arriva facilmente col treno, insomma un'oretta e qualcosa. Anche questo è bello perché, vabbè, tanto è veneratissimo anche appunto a Praga, dove c'è la statua originale di Gesù Bambino di Praga, a cui si devono tante grazie, tanti miracoli, quindi è un santuario molto importante, poi sia per la Liguria insomma che per il resto insomma dove si trova. È particolare sia dal punto di vista artistico, è notevole per quello che si trova, ma poi anche perché a fianco c'è un presepe all'interno di una grotta artificiale, tutto in ceramica, che è veramente qualcosa da vedere. Bello, quindi proprio ideale in questo periodo, nel periodo di Natale che si avvicina. Tutto l'anno, è proprio fisso tutto l'anno, e oltretutto hanno anche, seguendo insomma questo percorso di presepi, si arriva proprio a un'esposizione di presepi di tutto il mondo, e sono bellissimi, cioè proprio vedere le varie rappresentazioni da varie parti del mondo, tra cui soprattutto tanto dal Sud America, bello bello. E sempre adiacente al santuario poi ci sono delle serre di piante grasse, anche questa è una particolarità che vale la pena visitare. Grazie Serena per questi itinerari molto, molto particolari, così un po' di relax, un po' di ludicità, un po' di tutto. Però ecco, io voglio proprio di venire a vedere questa spiaggia nera. Io vado a vedere i presepi. E io voglio magnà. Ah boh, e io vabbè, se c'è qualche latinoamericano. Siamo a posto. Siamo tutti pronti, quindi non lo ripetere un'altra volta perché prendiamo già il volo per Pisa immediatamente. Però Serena, ti vogliamo ringraziare e ti vorremmo gentilmente chiedere di... Volevo anche finire l'aspetto ludico di... L'aspetto ludico. Non ho detto neanche dov'è il santuario, a Renzano, in Genova. No, c'è un parco appunto fuori dal santuario, ma nella città di Arenzano, che è bellissimo da visitare. Ci sono, mi dispiace rovinarvi la sorpresa perché per me lo è stata, ci sono addirittura i pavoni liberi che passeggiano tranquillamente per il parco, tra cui uno albino, che è qualcosa insomma da vedere assolutamente. Insomma, più o meno vi ho fatto mezza Liguria in 5 minuti. Fantastica, fantastica, veramente bellissima. Curiosità della Liguria, grazie mille. E postaci gli itinerari sul sito, mi raccomando, sulla nostra pagina, così chi ci ascolta poi... Niente, li abbiamo persi, Serena. Stanno ancora pensando al mangiare, alle spiagge. Li abbiamo persi. Soprattutto con quello, ragazzi. Oh, no, ma devo dire che veramente cura ogni dettaglio. Sì, esatto. Noi vi invitiamo a guardare il pavone albino. Tu pensi veramente a curare ogni dettaglio. Quelli pensano al mangiare e alla spiaggia. No. Io me lo volevo fare. Io arrosto, guarda, però... non ho parole. Mi scuso per loro. Scusa, oggi spero siamo che i nostri ascoltatori saranno un attimino più delicati e più come dire. Maturi. È la parola, ecco, perché qua oggi siamo a scuola. Serena, grazie mille per il tuo intervento. Mi raccomando, posta tutto sul nostro sito, così i nostri ascoltatori possono trovare i riferimenti per poter... E poi devi scrivere anche un libro, però poi ne riparliamo di questo. Ciao Serena, un abbraccio. Grazie ancora per i tuoi consigli, alla prossima. E salutaci la piccola Caterina, mi raccomando. Ciao Serena. Un bacione. Ciao. Allora, adesso lanciamo un'altra canzone della nostra ospite, una canzone che, vorrei sottolineare questo, un cantautore, una cantautrice, appunto, ha bisogno anche di esprimere i sentimenti del mondo, dei tempi in cui vive, e ci sembra particolarmente significativo, farvi ascoltare questa canzone, di cui parleremo dopo, il cui titolo è Guerriglia d'Oriente. Ecco a voi. Valentina Gravilli. Noi che viviamo nell'epoca delle previsioni meteo che non si sbagliano più, pace. Ma i pacifisti muoiono in lembi di terra, contesi come noi facciamo con le lenzuola, lottando per non restare scoperti, e il tuo pigiama rosso sa di Guantanamo. Potesse anticipare, farla coincidere con la scadenza del mio contratto interinale, il confine così labile, talvolta micidiale. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo con noi Rossella, Tiziana, Leandro per un'altra puntata dei Colori dell'Anima. Siamo qui con una cantautrice pugliese, Valentina Gravili, e abbiamo appena ascoltato una sua bellissima canzone, Guerriglia d'Oriente. Allora, Valentina, perché hai scritto questa canzone e perché l'hai intitolata così? Dunque, io di solito quando scrivo scrivo le mie canzoni, non vado a parlare di una sola tematica, spesso ci sono dei flash, delle suggestioni, delle emozioni, prendo degli appunti, magari succede qualcosa nel mondo, nella mia vita, e scrivo una frase, una cosa, e poi creo una sorta di collage, no? Che viene fuori poi nel momento in cui compongo la canzone. Guerriglia d'Oriente ha in sé vari spunti, ad esempio alcune parti sono nate quando, dopo la morte di Vittorio Arrigoni nella striscia di Gaza, altre parti parlano della primavera araba, ecco perché Guerriglia d'Oriente, tra l'altro il sottotitolo è Mentre fuori il sole insorge, e quindi faccio riferimento alla primavera araba che purtroppo poi si è rivelata non essere poi così tanto primavera. E... per la serie arriviamo tardi ovunque. Esatto, appunto. Si ritorna tutto, esatto, in questa discussione. Senti Valentina, però io vorrei parlare ancora un po' delle persone che sono che hanno fatto parte di questo tuo progetto, che sono parte del tuo progetto e che lo hanno reso possibile in qualche modo, no? Quindi ad esempio abbiamo parlato dei tuoi genitori, di tua sorella, ma c'è un'altra, dei tuoi fan, ma vorrei parlare anche di un'altra persona molto importante, di Massimo. Sì, Max Baldassarre, che diciamo è fondamentale, esatto, in particolare negli ultimi due dischi, perché lui ha curato la produzione artistica sia del secondo disco, il secondo insieme ad Amerigo Verardi, un altro grande musicista brindisino, il terzo invece l'ha prodotto tutto lui, quindi praticamente lui ha visto proprio, intanto è anche il mio compagno, quindi ha praticamente visto nascere i miei brani, viviamo insieme, quindi è riuscito a percepire tutti gli umori e i momenti proprio della creazione. E poi è stato proprio lì ad arrangiare, a lavorarci tantissimo, quindi è fondamentale. È anche il mio batterista, quindi facciamo i concerti insieme, mm-hmm, quindi diciamo che il 90% della mia carriera musicale è affiancata da Max, insomma. Quindi è importante avere, ecco, una persona così... Sì, ma anche perché lui ha, cioè, credo che abbia una sensibilità che va anche al di là dell'essere batterista, cioè lui ha un modo di percepire la musica a tutto tondo e quindi è riuscito proprio a capire bene quello di cui avevano bisogno i miei brani, come rivestirli, e secondo me è originalissimo, non lo so, il terzo disco è proprio quello che volevo, cioè ha proprio capito cosa volevo e me l'ha cucito addosso. Bene, e ripetiamo, il terzo disco è Arriviamo tardi ovunque. Senti, ma dove lo possiamo trovare questo disco? Allora, potete trovarlo su iTunes da acquistare. Benissimo. Semplicemente, oppure se non lo volete acquistare andate su Spotify e lo potete ascoltare. Sì. Fate un abbonamento a Spotify, magari così aiutiamo la musica originale. Anche se non volete comprare il disco, dico magari abbonarsi a questi nuovi canali che sono comunque dei metodi alternativi, no? Per sentire la musica, per trovare tanta bella musica legalmente, mm-hmm, quindi lo potete trovare benissimo, lì, benissimo. Senti, invece... su YouTube potete sentire, vedere video, potete andare sul mio sito che è www.valentinagravidi.com. Ma benissimo. Tu fai anche dei concerti, no Valentina? Sì. Cioè, vedi la tournée. Dici un po'. Prossima a Bruxelles vogliamo. Speriamo di ascoltarti e di guardarti presto qua a Bruxelles. Ma come ti senti prima dei concerti? Come si sente un musicista prima del concerto? Dici un po'. Guarda, dipende. Ci sono dei momenti in cui, ci sono dei giorni in cui salgo sul palco con un'incoscienza assurda. Cioè proprio salgo lì come se non dovessi fare niente, sono gasatissima. Poi io sono, cioè più gente c'è davanti, più mi sento bene, più mi sento a mio agio. Meno gente c'è, più mi sento intimidita. È un po' la cosa inversa. Quindi sì, dipende un po' dalle situazioni. Sicuramente l'emozione, quei 10 secondi prima di salire sul palco, cioè, però una volta che salgo poi va via. Cioè, okay. E hai ad esempio un rituale, una cosa che fai sempre, non lo so. No, perché non sono molto scaramantica. Okay. Quindi una pugliese non scaramantica. Un bel respiro. Guardo in faccia i miei musicisti. Li cerco con lo sguardo perché però sono importanti, anzi vorrei ricordare anche il nome di tutti gli altri, oltre a Max Baldassarre che suona la batteria, Maglio Torroni alla chitarra e Gianluca Del Torto al basso, che sono stati fondamentali fino adesso, anche nella registrazione del disco, perché loro comunque hanno registrato il disco, oltre che aver fatto i concerti, mm-hmm, insieme a me. Quindi li guardo, li cerco e saliamo e ci facciamo forza a vicenda. Nasce questo feeling, questo legame, vai. Sì. Perché poi mi dicevi che siete anche amici con i ragazzi del gruppo. Io credo sia fondamentale. Se non c'è il rapporto umano non si può avere un buon feeling quando si suona. E infatti ti dicevo che a volte ho anche cambiato musicisti perché magari a un certo punto... Capitano gli incidenti di percorso, sì. Mettiamola così. Senti Vale, però ecco, adesso che ci parlavi del concerto, di questo salire sul palco, incontrare il pubblico, vedere quanta gente c'è dall'altro lato, mi viene una domanda, no? Quando fai un concerto, quando presenti le tue canzoni, quando racconti le tue storie, racconti i tuoi pensieri, che cosa nasce tra te e il pubblico? C'è uno scambio, c'è un rapporto? Non lo so, e ad esempio qualcuno ti ha fatto mai un commento che ti ha lasciato un po' sbalordita, dice oh, wow, che bella cosa, abbiamo detto questo, non lo so. Sì, cioè quando succede è una magia secondo me, cioè nel momento in cui tu vedi che l'attenzione del pubblico è catalizzata su te, su di te. C'è un canale aperto di scambio. Esatto, lo vedi dagli occhi, dallo sguardo che ti stanno capendo quello che stai dicendo, allora lì ti senti bene, c'è proprio uno scambio di energie che poi prosegue anche quando scendo dal palco, perché poi io sto là, cioè vado a parlare con tutti tranquillamente, chiacchieriamo, mi faccio dire quello che pensano, prendo i contatti di altri, ci scambiamo il CD anche con altri musicisti, quindi voglio dire, è bello anche per quello. Che poi ti ricorderai che Valentina ha condiviso il palco con musicisti proprio tipo Piero Pelù, Max Gazzè, Carmen Consoli e tanti altri ancora, cioè hai fatto posso anche aggiungere che come Carmen Consoli vi assicuro che stare vicino a Valentina Gravilli sia proprio la sensazione di stare vicino a una donna meridionale, forte, piena di grandi emozioni, piena di grandi passioni, capace di trasmetterle al pubblico e capace soprattutto di incarnare proprio un carisma femminile che è tipico secondo me delle donne del sud e grazie, poetico grazie, anche grazie, è grazie. Poetico e quindi vi auguriamo di ascoltarla, le sue canzoni, esatto, proprio. Perché è stata per me una scoperta molto, molto interessante. Vi inviterei veramente a sentire, a collegarvi su Spotify o a sentire le canzoni di Valentina Gravilli. Senti, e Valentina. Io vi interromperei perché siamo in chiusura, ragazzi. Voi vi siete deliziati in questa bellissima discussione con Valentina, ma io sono interessata a sapere qual è il colore della trasmissione, perché Valentina, come abbiamo detto all'inizio, noi dobbiamo scegliere un colore. Perché ogni trasmissione parla di qualcuno, parla di qualcosa e ogni cosa nel mondo, nella vita, secondo me e secondo noi dei colori dell'anima, ha un colore, una sfumatura. Allora, secondo me la mia musica ha il colore del cielo brussellese quando piove, ma sta arrivando quel rossore che ti fa presagire che il giorno dopo sarà bel tempo, ok? Quindi una mescolanza di grigio e di rosso, ecco questo. Oh, che bello, magari a Bruxelles succede che ti fa presagire quella cosa e poi non è esattamente così, però va bene lo stesso. Adesso mi è capitato, sto qui da poco, però l'ho visto questo cielo e il giorno dopo è stato spettacolare, ovvero questo fine settimana. Benissimo. Quindi un po' di melanconia ma anche passione, perché esatto, insomma, no? Sì. Cioè il grigio un grigio rossastro, allora, il colore di questa puntata. Esatto. Ok, bellissimo. Credo che non ce l'abbiamo mai avuto un grigio rossastro tra i colori. No, ci bellissimo, mancava. Bellissimo, bene. Proprio poetico, devo dire. Senti, io vorrei ringraziare di tutto cuore Valentina Gravilli per aver condiviso con noi queste sensazioni, questa sua carriera, la sua storia, e vorrei appunto cogliere l'occasione per augurarle veramente di un realizzare in bocca il lupo suo grosso, sogno. Grosso, grosso, grosso, grosso, e dai quanto che il mondo. Non sei arrivata in ritardo, Vale, alla fine dei conti lo vedremo chi è in ritardo in questa vita. L'importante è arrivare grazie, poi. Grazie, grazie, grazie, sono stata benissimo, veramente. Essere come sei, grazie per essere come sei e rimani. E ringraziamo Serena. Cosa? Infatti, speriamo di ascoltarti e di guardarti presto qua a Bruxelles. E ringraziamo Serena Ferti, che grazie, è veramente Serena. Una grande compagna di viaggio. Grazie, scusaci per quel momento. Siamo diventati veramente dei bambini alla scuola. Dei bambini a scuola. Così, è la vicinanza di Leandro ci che piace mi piace mangiare i pavoni gridando all'orecchio. Mannaggia, Sandilla. Dunque, chiuderei questa bellissima puntata ringraziando tutti coloro che ci hanno ascoltato, che neanche abbiamo salutato, Giulia, Fiorentino, Cecilia, Katia, Dino, Enzo, tanti Giusy. grazie che ci seguite, che siete ancora presenti. Serena. Grazie assai, Leandro, che mallucchi nell'orecchio. E vi ascolti, ci rivediamo. Ci rivediamo a dicembre per la puntata natalizia con esatto, tutte le equipe dei colori dell'anima. Non mancate. Prossimo lunedì ci sarà naturalmente un'altra equipe. Noi ci lasciamo con un'altra canzone di Valentina. Mosca cieca, Valentina Gravilli. E vai, ciao ragazzi.